versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, da Oscar Giannino un saluto in diretta dagli studi della radio qui di Milano in questo venerdì 19 dicembre. Sono le 16:34, primi 45 secondi. Auguri a chi si chiama Berardo, oggi è San Berardo. Allora, il tema della puntata, per vedere se volete chiamare all'800 24 0024 oppure per gli sms 349 238 6666. Uno dei nostri compiti come informazione è quello di fare il controllo dei fatti, cioè il controllo tra quello che i politici dicono e quello che fanno davvero. Allora, il tema di oggi, e si deve a un articolo che un collega ha scritto sul Messaggero, è relativo a una delle tante promesse che avete sentito in questi mesi, stiamo parlando del governo in carica, rispetto a una voce di quelle di spesa pubblica che negli anni è diventata, per così dire, quasi simbolica del fatto che lo Stato chiedeva a noi di tirare la cinghia, ma lui proprio non ci riusciva, non voleva, proprio non era capace. E quindi oggi parliamo delle auto blu. Voi direte un classico? Sì, certo, sappiamo perfettamente che le auto blu non sono decisive nello spiegare la dinamica della spesa pubblica, sono però da anni un simbolo, no? Perché da sempre si è considerato che su alcune cose la pubblica amministrazione e la politica anche sui simboli doveva lavorare per fare capire che aveva a propria volta compreso l'aria che tirava, o per meglio dire l'aria che imponeva agli italiani come contribuenti. E allora oggi parliamo di quello che è successo rispetto a ciò che era stato promesso sulle auto blu dei ministeri, cioè dello Stato centrale, solo dei ministeri. Io vi chiedo di telefonare per dirci la vostra impressione, o meglio la vostra cognizione diretta, a seconda di che cosa facciate nella vita, su come le auto blu dei comuni, della provincia, delle regioni, delle aziende sanitarie locali, dove vivete, in questo anno siano diminuite, se sono diminuite, oppure rimaste uguali, o magari persino si siano accresciute. Qual è la vostra sensazione? Prima di arrivare al punto, mi limito a dire che gli impegni del governo Renzi, una volta arrivati appunto ad avere in mano le redini della spesa pubblica, e che per quello che riguarda l'articolo del collega che ora vi presento, dovevano essere a fine anno, e oramai siamo a fine anno, ridotte a non più di 93, cioè non ci dovevano essere ministeri con più di 5 automobili a testa. Ecco, adesso vediamo invece che cosa è successo, quindi semplice controllo dei fatti. Vi ricordo nel frattempo, breve bilancio e anche qui controllo di come vanno le cose rispetto a quello che si dice, due flash sugli andamenti della spesa pubblica in questi anni di crisi, da ricordarsi sempre, perché nel mentre per esempio il gettito sulle case, lo abbiamo visto in questi giorni nelle nostre trasmissioni, è aumentato del 270% negli ultimi soli 3 anni, da poco più di 9 miliardi a quest'anno vedrete che finisce a più di 26 miliardi sul solo mattone, quindi un aumento di quasi il 300%. Nel frattempo la politica che dice basta austerità, non ne possiamo più di tagli, andiamo a vedere com'è andata la spesa pubblica centrale, complessiva, voglio dire pubblica, perdonatemi, non quella centrale, e poi quella dei comuni. Allora, dal 2008 alla fine di quest'anno, la spesa pubblica corrente è diminuita, visto che dicono l'austerità? No, quella corrente non è diminuita. È vero però che in questi anni di crisi, pur salendo, ha iniziato a salire a un tasso molto più lento rispetto al pre-crisi, nel senso che la spesa corrente è salita del 3%. Il taglio vero è la spesa pubblica che riguarda il futuro, cioè gli investimenti, perché mentre la spesa corrente ha continuato sia pur di poco, ma ha continuato a salire, cioè non è diminuita, niente tagli nella spesa corrente, quella per investimenti è scesa dal 2008 a oggi, gli investimenti pubblici, del 38,7%. Eccoli i tagli che riguardano il futuro, chi non vota oggi, mentre la spesa corrente, chi vota oggi, quella è comunque aumentata. Se andiamo a vedere i comuni, sempre tra 2008 e 2014, ecco, nel loro caso i comuni che dicono di essere con l'acqua alla gola e che dicono che non basta anche l'aumento del 2014 di IMU-TASI, perché con la local tax, ne parleremo l'anno prossimo, vedrete che chiedono un ulteriore aumento del gettito locale e che lamentano i tagli in ogni legge di stabilità. Eppure la spesa corrente dei comuni tra il 2008 e fino al 2014 è aumentata del 17%. E anche nel loro caso però, a fronte di questo aumento della spesa corrente, la spesa in conto capitale, cioè gli investimenti, è scesa del 47%. Questo ricordiamocelo, teniamocelo come sfondo, perché come vedete la spesa corrente diminuisce, sommandoli tutte le componenti della PA, ma continua a salire. La spesa per investimenti sparisce, o quasi, e nel frattempo, su questo bandiera simbolo, che sono le auto blu, che cosa succede? Ecco, ce lo facciamo raccontare da un collega del Messaggero che oggi ha scritto proprio un articolo, ha fatto quello che si chiama il fact checking, il controllo rispetto alle promesse, si chiama Diodato Pirone del Messaggero. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutto, grazie a voi. Allora, tu hai fatto la verifica, sono 93 le auto dei ministeri a questo dicembre come promesso? No, ahimè, le auto dei ministeri sono più di 1100, le auto blu, per l'esattezza sono 1163, almeno a giudicare dai dati di cui possiamo disporre e che oggi abbiamo anticipato sul Messaggero. Dobbiamo dire per onestà intellettuale che questo numero è un numero che è in calo. All'inizio dell'anno, poco dopo, erano circa 1230, quindi diciamo 70 che in complessivamente meno. Sono scesi di 65 unità. Però ecco, questa storia si presta a parecchi gradi di lettura, a parecchie chiavi di lettura, non soltanto diciamo a quella come dire, della differenza fra gli annunci e la realtà, che è diciamo un classico del governo, non soltanto del governo Renzi, no? Credo. No, per carità. Io infatti, per esempio, ecco una cosa che ho scritto oggi, appunto occupandomi di questo tema, è proprio la complessità dell'argomento. Tutto sommato un argomento minore, come tu stesso dicevi, nel quadro molto complesso della spesa pubblica italiana. Bene, tu che cosa scopri? Scopri che uno dei motivi per cui, nonostante un decreto ad hoc che è stato varato in primavera, alla fine della primavera, è stato approvato a giugno e annunciato anche prima, le difficoltà nel tagliare queste auto blu nascono appunto dalla loro complessità, cioè dal fatto che per esempio molti ministeri queste auto le usano in affitto, cioè hanno dei contratti di leasing, e quindi di fronte all'UCADE, al diktat di tagliarle, non lo hanno fatto per un motivo molto semplice, che far saltare questi contratti avrebbe fatto scattare delle penali e che quindi praticamente invece di risparmiare la spesa sarebbe aumentata. E questo ok, però capisci che ai contribuenti gli arriva che per decreto legge si cambiano le imposte non solo dalla mezzanotte al decreto legge, ma addirittura in termini retroattivi, come puntualmente avviene anche per esempio il risparmio previdenziale quest'anno con la legge di stabilità, e quindi con tutta la comprensione per le procedure pubbliche che solo allo Stato poi non riesca se non in tempi lunghi, è comunque una cosa su cui riflettere, per così dire, no? Assolutamente, assolutamente. Questo tema delle auto blu è un tema molto sentito perché, come dicevi tu, è un simbolo. Quindi diciamo che questo tema andrebbe trattato per come merita, ovvero una diminuzione drastica, la regolamentazione del loro uso, perché ahimè ricordiamocelo, molte auto blu venivano usate impropriamente, e tutto questo però, diciamo, richiede dei tempi, si scontra con una realtà che è complessa obiettivamente, e quindi insomma, diciamo, può essere una metafora di come è complicato in Italia raddrizzare la baracca quando si tratta ovviamente della spesa pubblica, perché la nostra invece si tocca subito. Sentiamo le parole di Renzi su questo argomento che abbiamo ritrovato in archivio. Dal 26 marzo al 16 aprile inizia il percorso di vendita delle auto blu, saranno all'asta, come alcune illuminate amministrazioni locali hanno già fatto, per esempio mi ricordo quella città, Firenze, così, che ha già venduto all'asta le auto blu. Lì le abbiamo vendute tutte, qui sono oltre 1500 secondo la Spending Review, una larga parte sono a noleggio, quindi il tema è complicato, poi se volete entriamo nel merito anche della spending, però il punto centrale è che dal 26 marzo venghino, signori, venghino, si vendono le auto blu. Ecco, come dire, il tono era però di quelli che dicevano l'ho fatto a Firenze, lui stesso ammetteva, il Presidente del Consiglio, che c'era il problema del noleggio, però ragazzi, queste spariscono, sono ancora 1160. La previsione che fai tu è che quanto tempo ci vorrà, perché smaltendole al ritmo di 60 in meno l'anno ci abbiamo più o meno una dozzina d'anni di fronte, anzi quindicina d'anni buoni, insomma, per così dire. Allora, diciamo, al di là delle mie ipotesi, per quello che ho sentito ieri da più parti, l'obiettivo di portare le auto blu dei ministeri, attenzione, perché poi il vero scandalo delle auto blu sta negli enti locali, che ne hanno troppe, ancora a centinaia, diciamo, dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno prossimo. Però nei prossimi due mesi, almeno il Ministero della Funzione Pubblica così sostiene, nei prossimi due mesi ci dovrebbe essere un'accelerazione, perché vengono a scadere una serie di contratti e ormai con l'approvazione del regolamento attuativo non ci dovrebbero essere più ostacoli di tipo burocratico. Vabbè, adesso naturalmente noi speriamo che colleghi come te rimangano con la tigna e che quindi si segua passo passo questa cosa, però apposta io ho chiesto le telefonate dalle realtà locali, perché effettivamente sul totale delle migliaia di auto blu sono le realtà locali quelle che pesano molto, e lì l'intervento diretto e anche il controllo diretto da parte dell'informazione, ohimè, è molto più complicato. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16:47, primi 44 secondi. Abbiamo oggi messo nel mirino, come controllo tra gli annunci e i fatti, le auto blu dei ministeri. Diodato Pinone, del Messaggero, che è con noi, ha scritto un articolo dicendo: beh, la promessa era 93, a fine anno ne restano ancora 1163, quindi certo ci sono problemi complicati, il leasing, molti ascoltatori dicono che c'entra, si può fare subentro e comunque sia si risparmia comunque, eccetera eccetera. C'è un'opinione diffusa anche di chi lo utilizza, il leasing, nei nostri ascoltatori, e dicono, beh, insomma, se si vuole si fa come. Sentiamo invece in maniera decentrata dai nostri ascoltatori che esperienza o impressione hanno di quello che avviene nel resto della PA, cioè quella decentrata, comuni, regioni, ASL, eccetera. Attenzione, quando io parlo di ASL riguardano le auto blu dei dirigenti, non quel consegna materiale sanitario, eccetera eccetera. Però sentiamo Paolo dalla provincia di Alessandria. Prego Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. 60. Pronto? Eccoci. Pronto? Allora, io volevo dirle, io sono direttore sanitario della SLD Alba, anche se vivo ad Alessandria, sì. E ho già avuto l'occasione di spiegare a Milan che noi siamo una SL virtuosa perché abbiamo una quota capitaria bassissima, infatti non abbiamo auto blu, abbiamo solo Panda, la macchina che mettiamo è la nostra, del direttore generale, mia e del direttore amministrativo, e spendiamo da 30 a 40 milioni all'anno in meno rispetto a SL della nostra dimensione in giro per l'Italia all'anno. Allora, questo vuol dire una cosa, che si risparmia sulle piccole cose. Sa, le nostre Panda, le ultime hanno anche gli altri cristalli elettrici, le prime che avevamo non li avevano. Certo. Si risparmia sulle piccole cose, però si può risparmiare moltissimo, sa. Posso chiederle una cosa, Paolo? Certo. Il fatto di essere stati virtuosi, a cominciare dalle auto blu, ma non solo con quello, vi ha consentito e ottenuto incentivi, cioè viene premiato chi fa queste scelte nell'ambito dell'amministrazione sanitaria e dei fondi attribuiti nella regione, oppure no? Cornuti e mazziati. Ah, ecco, appunto, lo temevo. Noi abbiamo un bilancio in pareggio da anni, abbiamo una situazione di mobilità passiva assolutamente fra le migliori del Piemonte, quindi i pazienti li curiamo evidentemente in modo accettabile, sufficiente, perché non vanno via, e spendiamo decine di milioni in meno, come l'ho detto, rispetto alle ASL, altre ASL di pari dimensione del Piemonte e dimensione anche su più inferiore di altre regioni. Questo vuol dire che evidentemente si può fare con basta tenere comportamenti virtuosi. Ok, io sono dell'idea, poiché da piemontese purtroppo non mi è neanche piaciuto come è andato, no? L'andamento della sanità piemontese in questi anni e così via, che bisognerebbe incentivarli, cioè sul trasferimento di risorse dovrebbe essere premiato chi fa quello che fa Paolo con i suoi colleghi nella sua azienda sanitaria, mentre ho l'impressione proprio che non sia così, come Paolo ci conferma. Sentiamo Giambattista da Bergamo. Giambattista. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, io sono uno di quelli, io ho una piccola azienda, io sono uno di quelli che dico le auto blu le si ferma, non c'entrano lì, le si mette in garage, si rinegozia il contratto, si vende il contratto, insomma, avranno una capacità negoziale un pochettino più alta loro, quelli del governo, rispetto a quelle che sono le aziende, non lo so io. Ecco, questo era infatti, questa è l'obiezione che giriamo a Diodato Pirone, le facciamo rispondere dopo un'altra telefonata ancora, però sentiamo Giovanni da Reggio Emilia, prego Giovanni. Sì, guarda Oscar, sono perfettamente d'accordo con la telefonata precedente, cioè le auto in leasing, i contratti si ridiscutono, si chiudono, e la chiusura di un contratto comporta minori spese rispetto a mantenerla attiva. Mie esperienze di aziende dove cambiano le politiche aziendali e da oggi spariscono le auto aziendali per un certo gruppo di persone e non ce n'è per nessuno. Allora, sentiamo di fronte a questa solida opinione di Giambattista, Giovanni, ma anche di tantissimi nostri ascoltatori negli SMS, l'impressione di Diodato Pirone, che ha raccolto e scritto stamattina sul Messaggero, che in effetti questo era uno degli argomenti a cui si fa ricorso da parte dei ministeri per dire noi l'impegno ce l'abbiamo, ma abbiamo bisogno più tempo perché ci sono questi contratti in essere. Che pensi? Allora, sì, allora, dunque, sull'obiezione tecnica, io ho riportato quello che mi hanno detto, che ho trovato, e cioè che praticamente alcuni contratti prevedono delle penali, e quindi la loro abolizione o il loro cambiamento o la loro ridefinizione non sarebbe stata conveniente. Francamente, personalmente non so dire se si tratti di una scusa oppure diciamo di un problema vero. È vero, secondo me hai fatto benissimo tu Oscar a mandare le dichiarazioni su Firenze e le auto blu di Renzi, perché mi pare evidente che questo tema sia stato affrontato come all'inizio è stato fatto il governo, cioè come una specie di sindaco d'Italia, no? come se governare fosse facile, tra virgolette, come appunto gestire una città medio grande come appunto Firenze. La realtà è più complessa. In questa realtà, oltre ai contratti di leasing, bisogna metterci anche una resistenza della burocrazia, è evidente. Anche se bisogna dire che molti alti burocrati, quelli di Palazzo Chigi, voglio dirlo anche agli ascoltatori che giustamente sono infuriati, non vanno più al lavoro con l'auto blu, questo bisogna dargliene atto. Nelle 70 auto che sono state eliminate ci sono praticamente tutte quelle di Palazzo Chigi che praticamente sono a disposizione solo del Premier e dei 4-5 ministri senza portafoglio che abitano, tra virgolette, lavorativamente a questo proposito, sempre ringraziando i colleghi del Messaggero, si deve a loro il fatto che noi abbiamo appreso che proprio i dirigenti di Palazzo Chigi, di cui sta parlando Diodato Pirone, che hanno perso l'auto blu, e diamone atto all'amministrazione quindi di Palazzo Chigi, hanno avuto la conferma invece dei premi aziendali che erano stati promessi, un disboscamento era stato promesso da parte del ministro Boschi, e abbiamo letto proprio sul Messaggero che invece poi gli è confermata la vecchia natura dei premi, compreso un premio aggiuntivo di 5.000 euro in cui basta che facciano una proposta su una mail e si beccano 5.000 euro in più. Quindi, come al solito, c'è una realtà fatta di luci e di ombre, per così dire, è inutile dire di no. Attenzione che sulla resistenza della pubblica amministrazione, il conto qual è? Che i governi passano, mentre poi la pubblica amministrazione resta, quindi basta prendere un po' di tempo in più e magari qualcuno alza il piede dell'acceleratore e poi le auto blu restano. Sentiamo come la pensa ancora Mauro da Perugia. Mauro, prego. Sì, buonasera, io volevo portare un attimo la mia testimonianza come ex piccolo amministratore. Io facevo il vice sindaco fino a maggio di un piccolo comune in provincia di Perugia. Di quanti abitanti? 3.800 circa. Piccolo, certo. Noi non avevamo assolutamente auto blu, ma questo chiaramente si capisce. Avevamo un piccolo rimborso spese e mettevamo, come tutti gli amministratori locali di piccoli realtà, mettevamo a disposizione la nostra macchina, quindi con tutti i rischi che ne comportano per quello che erano le funzioni che eravamo chiamate a svolgere, che sono chiamate a svolgere. E quindi, le faccio una domanda secca, non si potrebbe estendere questo meccanismo a tutti? Esatto, è quello che dicevo io, non capisco perché. Bravo. Io mi prendevo la mia macchina. Bravo. E non possono farlo anche gli altri. Ecco, qui a volte vediamo i sindaci di città medie che hanno la scorta davanti e dietro. Allora, grazie a Mauro, grazie tantissimo e ottimo lavoro quello che fanno colleghi come Diodato Pirone. Continuate con Radio 24 e soprattutto domani mattina dalle 10 alle 12 i conti della Bella. Fatti guidare da chi conosce la strada. UBI Pramerica, da sempre al servizio dei tuoi investimenti. Vi ha presentato la versione di Oscar.